venga quel terribile voglio orribile, la sua morte a folgorar. Legga, legga, venga la sua morte, legga, venga la sua morte, quel terribile voglio orribile, legga e venga la sua morte a folgorar, la sua morte a folgorar.